E allora questa è sempre l'agenda, il martedì autogestito da femministe e lesbiche. Cambiamo argomento e parliamo insomma di un argomento che avevamo già pensato di affrontare la scorsa settimana, poi non c'è stato modo, non è necessario stare per forza diciamo sulla notizia. Abbiamo con noi al telefono Anna Simone. Ci senti, Anna? Sì, vi sento benissimo e vi saluto. Ciao, ben trovata. Buonasera. Allora, parliamo diciamo del suicidio di Maria Baratto, una cassa integrata diciamo insomma della Fiat di Pomigliano, che è stata trasferita poi a Nola insieme a altri 300 errotti colleghi, ed è appunto si è suicidata il 21 maggio. La notizia ovviamente è rimbalzata anche molto nei nostri ambienti, perché Maria era comunque una donna diciamo attiva all'interno del comitato Mogli degli operai di Pomigliano. Aveva lei stessa riflettuto insomma sui suicidi per diciamo così motivi di lavoro, insomma, prima di appunto operare anche lei questa scelta, questa scelta estrema. Noi abbiamo chiamato Anna insomma perché ci aiutasse un pochino ad inquadrare la questione dei suicidi sul lavoro, i cosiddetti diciamo suicidi economici. Anna ha appena curato, è tra le autrici e curatrici di un libro che è uscito da pochissimo, no? Sì. Suicidi, studio sulla condizione umana nella crisi. È un testo diciamo possiamo dire sociologico insomma, che ci aiuta insomma al di là dei numeri, delle statistiche e di appunto aspetti più quantistici, a inquadrare nella nostra contemporaneità questo tipo diciamo di suicidio economico, se vogliamo chiamarlo così. Sì, ma intanto vorrei dire che il caso di Maria mi ha colpita profondamente, perché la maggior parte delle persone che si sono suicidate tra il 2011 e il 2012, cioè in particolare nel periodo di tempo in cui la retorica pubblica era tutta concentrata sulla questione dell'austerity, mm-hmm. e quindi sul debito pubblico, ed è stato anche l'anno in cui ci sono stati maggiori licenziamenti, anche se la situazione non è evidentemente cambiata, lo dice anche l'ultimo rapporto dell'Istat, anzi è peggiorata, nonostante la retorica attuale, che invece è tutta spostata sulla rinascita, la crescita, sì, la competitività, l'uscita dalla crisi, insomma tutte balle. E mi ha molto colpita perché rispetto alla casistica che noi abbiamo studiato, in linea di massima ci siamo attestati più o meno tutti su una quarantina di storie che abbiamo recuperato dai quotidiani, mm-hmm. è una donna, e la maggior parte degli uomini, invece la maggior parte dei soggetti suicidari di quegli anni lì sono stati in prevalenza uomini, soprattutto per quanto riguarda la vicenda dei suicidi degli imprenditori, scusate, del Nord-Est, e si evince in maniera molto chiara e netta quanto diciamo il nesso debito, colpa e impossibilità di accettare il fallimento fosse anche estremamente legato a tutta la questione relativa del padre di famiglia, no? E in parte lo è stato anche per tutti i suicidi che ci sono stati in relazione al lavoro salariato, quindi ai suicidi legati alla cassa integrazione o ai licenziamenti di massa, diciamo per via della delocalizzazione dell'impianto industriale economico italiano, insomma, che conosciamo tutti e che è stato potente solo fino a un certo punto. Il caso di Maria mi ha colpita profondamente, intanto per le modalità, perché darsi quattro coltellate nella pancia ha un valore simbolico, perché la pancia per le donne ha un valore simbolico, e poi anche perché lei si è battuta con le unghie e con i denti contro il malessere che stava colpendo diciamo questa comunità a lei vicina e a lei prossima, cioè la comunità di Pomigliano, è quello che poi ne è conseguito, cioè l'impossibilità di potersi ribellare, no, alle logiche di Marchionne, alle logiche della localizzazione. Il fatto stesso che Marchionne abbia deciso di inventare questa nuova modalità, che sono i reparti di confino, che, i quali ricordano moltissimo i ghetti, i CIE, cioè tutte le zone diciamo protette entro i quali immettere coloro i quali diciamo sono esterni alle logiche del capitale, della normalizzazione che ne consegue, mi ha veramente colpita, perché lei si era molto ribellata. Si era molto ribellata e ha fatto di tutto per mantenersi aggrappata alla vita, e invece poi non ce l'ha fatta. Ecco, questo io credo che rispetto al suo caso sia veramente da un lato terribile, ma anche dall'altro emblematico, perché significa che la gran parte, diciamo, delle retoriche pubbliche appunto sulla ideologia della rinascita, della fuoriuscita dalla crisi, non tengono veramente conto della dimensione della vita materiale e quotidiana delle persone. E Maria, da questo punto di vista, è un caso veramente simbolo, di cui ci dovremmo sempre ricordare e a cui dovremmo fare sempre riferimento. E questo libro noi l'abbiamo pensato, io l'ho pensato, e poi ho chiesto a Caterina Peroni, che si è occupata nello specifico dei suicidi degli imprenditori nel Nord-Est, a Pietro Saitta, che invece si è occupato dei suicidi in carcere, perché questo aspetto non è anche importante. Noi sappiamo che nelle carceri ci sono la maggior parte dei detenuti, afferiscono alla cosiddetta sfera della marginalità sociale, quindi spesso sono anche delle persone povere senza poter accedere ad alcun diritto, e come noi sappiamo, diciamo, è tutto collegato, ecco. E poi c'è un saggio di Stefania Ferraro, che nello specifico ha lavorato sul tema della produzione di morte nelle fabbriche, il che non vuol dire soltanto occuparsi dei suicidi relativi al lavoro salariato, in particolare lei si è occupata dell'Ilva e di Taranto, ma vuol dire anche un'altra cosa, un aspetto totalmente nuovo, cioè che oggi ci si suicida anche per inaccettabilità del lavoro, per inaccettabilità della trasformazione del lavoro. A parte Taranto, no? Noi sappiamo che a Taranto il tema lavoro-salute è stato ed è ancora irrisolto. Per esempio c'è il caso dei suicidi alla Telecom France, di cui invece mi sono occupata un po' io en passant nel mio saggio introduttivo, in cui cerco di ricostruire in una ottica diciamo più generica questo tema del negativo nella crisi, che poi si può anche risolvere con i suicidi. E perché? Perché alla Telecom France, per esempio, ci sono stati un numero altissimo, elevatissimo di suicidi, quasi 200 nell'arco di un tempo molto breve, non perché loro avessero perso il posto di lavoro, ma perché il lavoro era cambiato, è cambiato radicalmente con l'arrivo dei manager, con l'arrivo della retorica del soggetto della prestazione, con l'arrivo della logica secondo cui per abbattere i costi del lavoro anche i lavoratori salariati devono diventare lavoratori autonomi, dunque la competitività tra i singoli all'interno della stessa azienda, eccetera eccetera. Ecco, tutte queste trasformazioni del lavoro più contemporanee hanno reso impossibile per molti lo stress da lavoro, cioè l'idea stessa che il lavoro non sia più un luogo, no? Come avveniva un tempo, attraverso cui recuperare un reddito che serve per vivere, e poi, no, c'era il cosiddetto tempo libero, come avveniva nel fordismo, sì, eccetera eccetera. Ma il lavoro diventa la vita stessa, e nella gran parte dei casi diventa anche una modalità della prestazione, non dell'efficienza, cioè diciamo così, coinvolge anche la dimensione psichica dell'individuo, perché la paura di essere continuamente licenziati, lo stare continuamente sotto ricatto, la logica competitiva, l'ansia da prestazione produttiva possono condurre a delle forme di esasperazione tale per cui ci si può anche suicidare per questo, insomma. Sì, tra l'altro forse in modo anche trasversale, cioè quindi riguarda diverse tipologie, diciamo, la precarizzazione in qualche modo così diffusa. Sì, anche la precarizzazione, assolutamente. Infatti c'è anche il saggio di Sara Fariello che chiude il libro, e Sara nel saggio invece si occupa di alcuni casi di suicidi relativi al lavoro immateriale, quindi suicidi di ricercatori, dottorandi di ricerca. E cosa assolutamente inedita, diciamo. Sì. E noi abbiamo deciso, io ho voluto moltissimo questo libro per due ragioni. La prima è che questo tema è come una sorta di rimosso, no? All'interno della parola, sia dei movimenti che della politica istituzionale. Non si vuole raccontare questa vicenda qui, fa paura. E questo è molto interessante, perché se fa paura vuol dire che siamo tutti male ma non riusciamo a dircelo, e non riusciamo neanche a trasformarla questa rabbia. E dall'altra perché io sono rimasta totalmente basita da come i mezzi di comunicazione di massa, cioè i giornali, in particolar modo i giornali mainstream, hanno trattato l'argomento in quel periodo lì, cioè tra il 2011 e il 2013. Ho studiato nello specifico, per esempio, i rapporti di ricerca quantitativi sul tema. È impossibile riuscire ad avere dei dati. Sì. Impossibile, perché alcuni l'EURES, che è un istituto di ricerche privato, sosteneva la tesi secondo cui vi fosse un vero e proprio allarme sociale. Sì, sì. La CGA di Mestre pubblica un altro rapporto di ricerca in cui dice pressoché la stessa cosa. Poi invece l'Istat, all'indomani dell'attacco da parte di Di Pietro, pur non amandolo, però insomma per ragioni di verità, insomma, io faccio la sociologa, Di Pietro a un certo punto attacca il governo Monti, eravamo lì diciamo, per avere addosso sulle nostre spalle la spending review, la prima. Di Pietro attacca Monti e dice: tu sei responsabile della morte di una serie di persone, eccetera, eccetera. E all'indomani, cioè dopo pochissime settimane, il presidente dell'Istat va a fare una conferenza a Bologna, invitato dalla rivista Il Mulino, e sostiene la tesi secondo cui non v'è nessun allarme sociale, non è assolutamente vero che i suicidi erano aumentati o sono aumentati, e che su questo si stava strumentalizzando. Sì. La notizia. Ebbene, io sono andata a studiarmi il rapporto dell'Istat e ho scoperto, da sociologa quale sono, che pur effettivamente è vero che i suicidi non erano aumentati in termini generali, però loro non scorporano il dato, non hanno mai scorporato il dato, e invece sono aumentati in maniera esponenziale, erano e probabilmente continuano ad aumentare i suicidi economici, cioè la tipologia specifica di cui noi ci siamo occupati, nel senso che ci si può suicidare per molte ragioni, no? Certo. Però se aumentano i suicidi economici e nessuno scorpora il dato, sul dato generale è troppo facile dire all'indomani della spending review che Monti non ha istigato al suicidio un tot numero di persone, e quindi ho voluto occuparmene perché ritengo che il lavoro sociologico debba essere un lavoro di verità. E poi perché all'interno di tutto quello che si racconta e che si è raccontato finora sulla crisi, la dimensione della vita materiale delle persone e dunque anche, diciamo, la cultura della vita e della morte è sempre un rimosso. Per cui abbiamo fatto un lavoro grosso che è durato 2 anni, fitti, e alla fine è venuto fuori questo libro. E rispetto al tema, cioè, poi questo libro in realtà non è un libro sui suicidi in sé, è un libro sulle cause economiche, no? Sì. E che hanno prodotto la desaffiliation, la chiamo io, cioè la fine del legame sociale, la paura, la solitudine, e il fatto di vivere il debito come una colpa, per esempio, l'impossibilità di accettare il fallimento e quindi di riconvertire, di cambiare la propria attività produttiva da parte degli imprenditori, che è molto significativo, no? Noi sappiamo che il capitalismo italiano dagli anni 80 in poi si è tutto concentrato sul fatto che il vero settore produttivo italiano potesse essere la piccola e media impresa, e poi invece più di recente le cosiddette partite IVA. Invece, se andiamo a studiare questa trasformazione del capitalismo e della produzione dal lato dei suicidi, ci accorgiamo che effettivamente quel modello lì è stato suicidario, è stato il modello suicidario. E nel senso che appunto il capitalismo tu puoi trasformarlo quanto vuoi, ma non cambia alla fine l'ordine del discorso. Così come per quanto riguarda i suicidi relativi al lavoro salariato e così per quel che riguarda i suicidi all'interno delle carceri, cioè il tema non è il suicidio nelle carceri, è il carcere. Sì. Anche rispetto alla fabbrica, il punto non è i suicidi degli operai licenziati, ma è quel sistema produttivo. E quindi abbiamo dato questo taglio anche perché appunto in sociologia uno dei classici è il suicidio di Durkheim. Infatti. Scritto nel periodo della rivoluzione industriale, quando appunto c'erano le prime migrazioni dalle campagne alle città, nascevano i proletari, nascevano anche i sottoproletari, nasceva il lumpenproletariato, eccetera eccetera, e anche lì c'erano stati casi di suicidi enormi, e quindi Durkheim se ne occupò nel suo volume, che poi è diventato un classico della sociologia. E dunque abbiamo ripreso questo classico della sociologia per affrontare il tema all'interno della contemporaneità. La differenza è evidente e netta, come dicevi tu prima. Oggi i soggetti che si suicidano sono totalmente trasversali. Sono trasversali perché? Perché afferiscono anche alla scomposizione del lavoro, così come la vediamo oggi, per cui abbiamo manager, abbiamo lavoratori salariati, manager che non reggono la dimensione competitiva della prestazione, abbiamo lavoratori salariati, abbiamo pensionati che hanno paura di non farcela, abbiamo ricercatori e dottorandi di ricerca, abbiamo donne operaie, operai maschi, cioè abbiamo appunto tutti i soggetti della scomposizione del lavoro. Eh sì, no, è effettivamente un argomento. Adesso mi veniva in mente così anche tutte invece le retoriche messe in moto proprio negli ultimi anni anche dagli organismi internazionali che fanno anche un po' leva sul femminismo, sull'importanza che le donne entrino nel mercato del lavoro, penso all'ONU, al Fondo Monetario. Sì, appunto, per fare quattro lavori contemporaneamente e poi desiderare la morte probabilmente. Esatto, esatto. Sì, sì. E comunque anche in quel caso nella migliore delle ipotesi si crea un'autonomia dal genere maschile, forse se si riesce a guadagnare, ma non certo dal capitalismo. E quindi in effetti probabilmente anche sì, perché è il mito della produzione. Esatto. Che produce la condizione psichica del soggetto suicidario. Io ho insistito molto su questo. Per esempio i casi di suicidio degli imprenditori del nord-est da questo punto di vista proprio parlano moltissimo, no? Perché loro si suicidano perché si vergognano, no? Di perdere lo status, quindi significa che la loro produzione si è generata all'interno di un modello di accumulazione del capitale, per cui se poi diventi povero sei fuori dalla società. Sì. Quindi non regge il fallimento e ti suicidi. Invece per quel che riguarda i suicidi del lavoro relativi al lavoro salariato, quindi alla condizione operaia, lì il tema è appunto la rottura del nesso lavoro, dignità, identità. Sì. Ma anche lì stiamo parlando di un nesso costruito dal capitalismo. Perché, sì, sì. Come possiamo, diciamo, ragionare in termini di nesso produttivo tra lavoro e dignità? Cioè, se il lavoro è sempre sfruttato, se il lavoro ti consente di vivere, certo, la tua vita quotidiana, ma sempre, diciamo, all'interno di un di una dimensione subalterna. Ovviamente io non colpevolizzerei mai questi soggetti che poi hanno optato per la morte volontaria, l'ho anche scritto, dichiarato, però ecco, il tema del suicidio è potente tanto quanto è potente riflettere sul male e sul malessere, sì, che produce questo sistema produttivo, che diventa sempre sempre più violento nel neoliberismo. Appunto, il passaggio dal soggetto efficiente nella fabbrica al soggetto della prestazione performativa, al dover essere sempre, no, quasi cocainomani per poter reggere il tempo della produzione, è secondo me devastante. Beh, sì, forse anche un neoliberismo anche molto alienante, nel senso, sì, che Durkheim infatti aveva notato che le persone, quando sono in presenza di legami forti, di legami sociali forti, la tendenza al suicidio, il tasso di suicidio diminuisce, quindi certo, probabilmente anche questo. Ma certo, perché la prestazione ti butta nella competitività. La competitività è tra singoli. E rompe i legami di solidarietà, certo. E rompe i legami della, sì, solidarietà, sì, rompe la collettività. Noi non viviamo, io teorizzo la fine della società ormai da 5 anni. Dopo la fine della storia, Anna? Sì, perché è difficilissimo, tant'è che sì, anche diciamo i movimenti che producono e generano qualcosa di nuovo, su che cosa si attestano? Sulla dimensione della comunità. Ora, io non sono una comunitarista, perché invece ritengo che bisogna reinventare la società, no? Reinventare legami sociali di ampio respiro, però questa cosa esiste, esiste. La competitività tra la precarietà genera competitività, sì, le sì. Il lavoro autonomo genera competitività, e la competitività è sempre ricatto, solitudine, paura di non farcela, insomma, stiamo parlando di questo, ecco. Sì, sì, è compreso anche la rottura, diciamo, appunto, la separazione dei tempi di vita, dei tempi del lavoro, e questa, sì, sì, terribile, mortifera coincidenza dell'uno questo con l'altro. Vive, questo lavorare continuo, sì, no? Continuo, sì, a me, continuo, è tremendo. Siamo, secondo me, anche oltre l'alienazione. Ma sì, certo. Poi nel caso, appunto, come anche riprendendo il piccolo articolo che la stessa Maria Baratto aveva scritto qualche anno fa, lei puntava poi anche sulla delocalizzazione, che è stata un'esperienza terribile per loro, certo, insomma, questo lo citavi all'inizio. Sì, sì, insomma, certo, assolutamente. Sì, perché poi non è vero che il lavoro salariato è finito, è stato semplicemente delocalizzato per abbattere i costi del lavoro, come tutti quanti noi sappiamo. Eh sì, bisognerebbe ripensare a un nuovo modello sociale, ovviamente, però è tutto da definire. Intanto, diciamo, un punto fermo c'è, che rimane per me sempre quello delle battaglie sul reddito minimo. Al di là di quello, io credo che ricostruire il legame sociale sia il problema principale in questo momento, sì, perché sì, lo si vede dappertutto, ma insomma, anche uno come Renzi è un soggetto della prestazione number one, cioè è uno che agisce di performativo dalla mattina alla sera, parla in continuazione, non dice niente, solo parole vuote, no? Solo retorica, sì, ma pensiamo anche a tutto quello che accade nei social network, io un po' ci sono perché un po' mi diverto, un po' mi incuriosisce da sociologa, è tutto veloce, no? Sì, in questa velocità si perde poi totalmente il senso delle relazioni, dell'esperienza, dello stare con gli altri, insomma. Eh sì, sono, diciamo, vabbè, un argomento vastissimo e anche tantissimi livelli, tra cui anche questo è una produzione, diciamo, culturale, no? Intorno a noi, che ci spinge alla performance, all'individualismo, in effetti. Sì. Sì, sì, alla logica, appunto, del capo, del leaderismo, del chi ce la fa, chi di più. Sono tutti fenomeni che, cioè, c'è un libro bellissimo uscito da poco di Dardot e Laval che si chiama Critica si chiama La nuova ragione del mondo, critica della razionalità neoliberista. E nell'ultimo capitolo, che ho trovato bellissimo, si chiama La fabbrica del soggetto produttivo, credo, adesso non mi ricordo bene, e spiega molto bene appunto come funziona, ma come funzionano anche, direi, le modalità di accesso al lavoro, no? Com'è possibile che adesso per qualsiasi lavoro devi fare delle selezioni? Cioè, ci sono persone di 50 anni, anche miei amici, che sono stati licenziati e che si ritrovano a 50 anni per avere un lavoro precario a dover fare selezioni su selezioni. Cioè, questa appunto è tutta è una cultura proprio della competitività, che un tempo afferiva soltanto alla sfera dell'impresa e che oggi invece afferisce a tutte le sfere del lavoro. Ecco, il capitolo si chiama La fabbrica del soggetto neoliberista. Bene, Anna, noi ti ringraziamo, insomma, molto del tuo tempo, e ci hai aiutato, insomma, a affrontare un tema evidentemente complesso, e speriamo, insomma, anche di tornare a parlare del lavoro, e sicuramente ti coinvolgeremo se per te va bene. E intanto noi ti ringraziamo molto e ci sentiamo presto. Io vi ringrazio per aver voluto parlare di Maria e anche di questo libro, perché appunto non siete donne che rimuovete, quindi vi ringrazio. E sono talmente pochi, come dicevi, i testi che in effetti affrontano questo, che insomma, ma c'è paura, è un tema che non si vuole affrontare. Io, il libro ha avuto molte recensioni, lo sto presentando, però c'è proprio, sento che c'è una sorta di paura, sì. Va bene. Grazie. Grazie a te. Grazie, Anna. Ciao. A presto, ciao, un abbraccio. Buonasera. Ciao.